se è così come prima oppure si è messo a posto. Se faccio qualche passaggio 30 che aveva, circa 10 watt mi sembra. Beh, quanto sale Fabri, con tu qualsiasi cosa importante, la messa di 9 qualcosa. E un watt in più perché gli ho fatto una taratura, però poi c'è il potenziometro che può aumentare e poi da, mi sembra arrivi a 17-18 come picchi. Ma dico, tu ci hai portato, lo smite sale a quanto? Intorno ai 10 watt. Ok, no, niente, se lo voglio aumentare so chi è il trimmer, l'ho visto. Quello nero, giusto? No, quello è l'LC. Sinistra. C'è scritto AM, c'è scritto. Si conferma, va bene, e poi non lo so. Fabri, io non ti dico, prima non andava, non ho problemi di ricezione. No, io con questo ti ascolto benissimo, chiaro, ma ascolto Fabrizio, chiaro, ha salvato il sicuro al 100%, lo ascolto chiaro, eppure, vedi, è tutto aperto, anche se non è male, come se fosse tutto aperto. C'ho problemi di ricezione, no, io ho quasi sento aprire tutti i segnali più forti, anche sul 5 stamattina, c'ho segnaloni, sento chiari, senza essere disturbi di modulazione. Io voglio sentire la salvatore con questo malattino, ma l'avevo già sentito, se non sbaglio, qualche mese fa, lo sentivo benissimo, invece con l'altro no, lo devo attenuare più della metà, cioè tornare indietro a sinistra, e per sempre stiamo parlando, non menti niente, poi ogni volta mi tocca, vediamo cosa conte questo coso, alta, basta, perché se abbasso non sento quello di Muros, e poi mi dovrei abbassare perché se l'altro arriva tutto l'altro, cioè male, proprio complesso. Vabbè, sarà questione comunque di tocco, di niente. Aspetta Luca, c'era qualcuno sotto di te? Evidentemente no, non ti sentivo. Avanti, chi vuole entrare, buonasera. Sì, ciao, va bene, buonasera, ben ascoltato. Va bene, siamo sempre qua, ogni tanto facciamo due chiacchiere per attivare questa benedetta frequency. Non ci ho ascoltato io. Sono ascoltati con Fabrizio a fare due prove, siamo messi qua e ci dunque Fabrizio, avanti Fabrizio, è Domenico. Ciao Domenico, ben sentito, da questa parte Fabrizio, sto provando un baracchino, con un po' più vatte, ma probabilmente mi sento ugualmente. Sì, tutto a posto, dai, ci vado a mangiare. Sì, quando vuoi passa a prendertelo, in qualche maniera te lo faccio avere. No, non c'è problema, Fabri. Al limite, domani ci sei a casa? Sì, non so se sei in giro domani mattina, me lo metto in macchina. Ma vuoi tu, Fabri? Se vuoi ti lascio il mio numero, segnati il mio numero. Non c'è problema, mi fa un po' ti richiamo io, siamo appuntamenti, ci prendiamo un caffè, quello che vuoi. Infatti ho un bagaglio, adesso ve la posso. E così vediamo un po'. Se fa un po' di turismo, ma così non me ne frega niente, non sto lì a darlo l'altro, come mettere a posto. No, un po' quindi tu c'era il mio numero, sono quella da Claudio, credo ce l'hai il mio numero. Vabbè, se me lo dai, penso che non stai abitando in frequenza. Sì, no, ma non c'è problema. Guarda, io adesso gli ho fatto tutto l'allineamento. Gli ho in banda, in eccetera. Il resto non era molto fuori, ho fatto proprio spaccato come allineamento, è perfetto. Poi ho controllato il resto, non era così fuori, era abbastanza a posto. In banda era completamente fuori. Avevano scacciavitato i trimmer, però per il resto più o meno era a posto. E niente, va bene dai, no, ma non ti preoccupare, no, non mi devi niente, non ci mancherebbe altro, te lo prendi e te lo usi e basta, non ti preoccupare. E vabbè, non è quello, ma ci mancherebbe, lo proviamo e vediamo. E vabbè, ma però questo non si può modulare. Io non mi dico, lo sento basso, lui sicuramente non mi sente comunque. Domenico, mi senti? Non manco mai parle. Aspetta che devo andare a mangiare, rientro un attimino così ti ascolto. Sono qua, Claudio. sia, non c'è problema. Ma arrivi perfetto qua, non si vede, questo si chiama le freghe, Michele, le freghe, no, qui arrivi bene, non sento nessuna distorsione. No, veramente, io ti ascolto, ma ho provato anche con le altre radio, arrivi bene, anche con Baracchino acceso la KB23, arrivi benissimo, di solito quelle radio così vecchie distorgono, invece questa... Questa funziona benissimo, capito? Vabbè, io me ne sto andando a mangiare, dai, e lo metto via, così domani ci sentiamo. Ascolta, mandami un messaggio qua con il numero di Luca e così domani lo chiamo. Va bene, adesso te lo mando, vai tranquillamente a mangiare e ci sentiamo. Avanti, Luca. Dice, è un numero che devo cambiare, c'ho già nuovo il numero, visto che qualche imbecille chiama in anonimo e fa quello che non deve fare, però il numero è sto controllo, se so poco poco chi è, ora non me ne frega niente, ora mi spacco la porta o l'accetta di spacco. Aspetta, saluta Domenico, Domenico saluta Luca, sta usando un baracchino piccolo e... non lo senti. Fatti buon viaggio, fatti buon tutto prima che ti perda. Ciao Domenico, ciao. Mi saluta anche Domenico. Scusa per domenica mattina, ma avevo un appuntamento con Capri, mi ha portato delle radio americane all'epoca e poi sono andato via. Sono andato via perché c'avevo da fare e quindi non... Non ti ho potuto dar retta in quell'attimo. Ma non ci mancherebbe, non c'è problema, sei impegnato. Lo sai che non ho problemi, era giusto prendere un caffè così. Tutto qua. E vabbè. Allora, parla la prossima. Fai la prossima. Se no, devo dire. Sai che non c'è problema, mi è dispiaciuto perché mi hai chiamato, ma ero alle 9:30 che stavo aspettando a Capri e anche lui è arrivato verso le 10, infatti ho trovato anche c'era Antonello Giussi che stava aspettando altra gente, poi ho preso un caffè e sono andato via perché devo fare la spesa, devo uscire, devo fare cose e quindi niente, tutto lì, va bene. Comunque, alla prossima, già ci organizziamo, ci prendiamo caffè già la sera, non c'è neanche problema. Lo stavo dicendo un'altra cosa. Oh, ho acceso, ti ricordi quello spartacolo, quello che mi avevi dato tu? Cosa non ho capito, scusa? Quello spartacolo che mi avevi dato tu. Beh? Cos'è che tanti mesi è nel cassetto, sempre? Ho provato a accenderlo e accende sempre, senza caricare la batteria. Quello è un, il 130 è un telefono, uno dei migliori. L'altro no, c'era il 130, no, aspetta, 130 mi sa. E là c'era anche l'altro, quello... aiutami. Quello... Ui. Quello, vabbè, quello a LED era prima, quello con i LED rossi. Quello 130 è guarda, il migliore che c'è. Quello ci può dire d'epoca, quello domani c'è il programmatore che fa la collezione di telefonini, quello te lo paga come oro. Sì, già rimane chiedi, non c'è problema. No, ma mi ha un po' così, ma cioè, era un bel dentro il cassetto, l'avevo caricato bene la batteria, l'avevo anche usato, me lo portavo al lavoro, tutti mi inguriano in granci. E quindi ho detto, esci che provo, l'altro io stavo cercando un altro telefonino, che c'ho i telefoni di scopo da lavoro, cacco vado a accenderlo e acceso, ho detto, ma vai dai il tuo telefono, nonostante non l'abbia più usato, sai, è vecchio, però no, anche se nuovo, ho provato a accenderlo e accendeva, tranquillamente. E già lo so, funzionavano bene, costavano un sacco di soldi quei telefoni, vabbè. Ok, dai, d'accordo, io sono qua, mi nascondo. anche di notte non ascolto, ma no, non sono entrato, stavo ascoltando. Va bene, ci sentiamo, Rugarie, dai, stammi bene, alle prossimine, vado a cenare. Sì, a dopo, ciao ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.